Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Dunque, il vertice di ieri doveva essere, come dire, abbastanza rapido. In realtà durerà alla fine almeno 10 giorni, questo perché i dettagli che saranno elaborati da qui al prossimo summit europeo del 17-18 marzo saranno poi quelli che segneranno la decisione di questa fase di trattativa con la Turchia e anche sulla linea da tenere da parte dell'Unione Europea rispetto appunto a quella che ormai conosciamo tutti come la rotta balcanica. Poco fa il portavoce della Commissione Europea Alexander Winterstein ha parlato poco fa appunto in merito ai dubbi legali sollevati da organizzazioni internazionali come l'UNHCR, quindi l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, sui rinvii in Turchia dei migranti che raggiungeranno illegalmente le coste della Grecia. Intanto la proposta di Ankara ha ottenuto nella notte, al termine di un duro negoziato, un appoggio, un endorsement dei capi di Stato e di governo dell'Unione Europea. Insomma, una trattativa di interessi contrapposti. Possiamo sentire a questo proposito una battuta, una ventina di secondi di Matteo Renzi questa notte al termine dei lavori. Ogni Consiglio Europeo si fa un passettino, ma detta in italiano, che fatica che si fa. Diciamo che rispetto alle richieste turche sono abbastanza state, diciamo, attutite. C'è un riferimento comunque al fatto che abbiamo avuto una bella discussione sulla libertà di stampa. Ecco, richieste attutite, tradotto, la Turchia ha chiesto altri 3 miliardi di euro. Naturalmente la questione è stata oggetto appunto di una vivace discussione. Sul fronte delle libertà continua di fatto questo elemento di dialogo e di contrapposizione tra un paese così centrale in tutta questa vicenda, lo ricordiamo centrale anche nel suo ruolo di seconda forza della NATO e dunque alleato imprescindibile, nello stesso tempo un paese appunto in cui la professione giornalistica, in cui la libertà di stampa viene costantemente messa in discussione. Ma questa naturalmente è un'altra storia. Per quanto riguarda Renzi, c'è stato anche il momento per un commento, direi fulmineo, su quelle che sono le note dell'Eurogruppo, e il richiamo in particolare dell'Eurogruppo all'Italia sui conti pubblici. I conti dell'Italia non sono al sicuro, sono allo strasicuro. Ecco, direi che questo rappresenta la comunicazione formale rilasciata appunto dal primo ministro italiano. Adesso facciamo un punto, un riepilogo su questa lunga notte di trattativa nel servizio di Anna Marino. All'origine doveva durare una mezza giornata, ma il vertice straordinario europeo sui migranti si è trasformato in una lunga corsa di 12 ore a ostacoli e si è concluso a tarda notte dopo un braccio di ferro serrato tra Europa e Turchia e una sospensione a tarda serata. Si è chiuso con una intesa di principio, un compromesso di fatto per prendere tempo e un rinvio fino al prossimo incontro del 17-18 marzo tra minacce e veti. Un match a più round durante quale Ankara ha alzato la posta per fare da argine all'arrivo dei migranti in Europa e ha chiesto 3 miliardi aggiuntivi per il 2018. In contropartita, il paese della Mezzaluna, che già ospita 2 milioni di rifugiati, ha proposto all'Europa un sistema di reinsediamenti secondo uno scambio di 1-1, dicendosi disposto a riprendere tutti i migranti che hanno raggiunto illegalmente l'Europa da una certa data in poi, sia economici che richiedenti asilo, ma per ogni profugo siriano riammesso chiede che i paesi dell'Unione ne accolgano uno in modo legale dal suo territorio. Oltre a questo, la Turchia ha messo sul piatto una procedura accelerata per entrare in Europa, difficile che avvenga sino a quando Erdogan limiterà i diritti della libertà di stampa, in primis secondo il premier italiano Matteo Renzi, comunque a fianco della cancelliera tedesca Angela Merkel, per cercare un accordo e interrompere la rotta dei Balcani. I veti arrivano anche da altri leader europei. Secondo il premier francese Hollande, l'Europa deve impegnarsi anche in un piano di ripartizione. Per il greco Tsipras, i turchi devono rispettare le regole. L'inglese Cameron e l'ungherese Orban dicono no ai profughi da altri stati. Oggi l'incontro tra Tsipras il premier turco Davutoglu e resta ancora tutto da mettere nero su bianco. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E a questo proposito una battuta in chiusura: il premier greco Alexis Tsipras è arrivato a Smirne, dunque sulla costa egea della Turchia, per incontrare appunto Davutoglu a poche ore dalla conclusione. Ha detto: credo che avremo un incontro storico con una decisione di modificare l'accordo di riammissione che vede la Turchia riprendersi tutti i migranti che non hanno diritto alla protezione secondo i trattati internazionali. Questo Tsipras poco fa, uno Tsipras Kallas, che nella mattinata da Bruxelles è volato direttamente a Smirne. È tutto, è tempo di tutti i convocati. La linea dunque va a Carlo Genta. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.